grazie a Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, programma che inizia dalle ore 20 alle 21.30 e partiamo con la sigla, ovvero Retribution dei Behind Enemy Lines. Questi erano i Behind Enemy Lines, il brano Retribution, che è la sigla iniziale di questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle 21.30. Stiamo trasmettendo ovviamente in diretta qui da Udine e ci state ascoltando sui 90 MHz e andiamo ora all'ascolto. E più che altro anche la presentazione di questo 7 pollici, un 7 pollici che è uno split, si chiama 4 Fulmini Split, sono 4 le band che hanno partecipato e noi ci ascoltiamo questa prima band che sono i Seamless, che sono di Cosenza. We're gonna make it. Se aumenta la sorveglianza normale, aumenta anche la sorveglianza speciale. Un saluto anche da parte mia. Allora iniziamo così la parte dedicata agli interventi politici, parlando appunto di sorveglianza speciale. Proporremo la registrazione di una trasmissione di Radio Onda Rossa che si chiama Silenzio Assordante, che presenta praticamente l'intervista a un compagno che appunto il 15 di settembre, quindi l'altro giorno, ieri, perché oggi è il 16, aveva appunto questa udienza, perché vorrebbero affibbiargli questa sorveglianza speciale. E dico però prima due parole di introduzione. Che cos'è la sorveglianza speciale? È una misura repressiva, però è una misura repressiva di tipo preventivo ed viene sempre più spesso utilizzata contro gli anarchici e le anarchiche in particolar modo, ma anche in generale contro sovversivi, sovversive e rivoluzionari. È proprio una misura repressiva tipica della dittatura democratica e capitalista. Sì, dicevo che ha una natura, sì, che è una misura appunto preventiva, e ha una natura intrinsecamente priva di una forma definita, diciamo, dei caratteri definiti. È una misura ambigua e discrezionale, anche dal punto di vista del diritto. Quindi, essendo una misura preventiva, rappresenta una sorta di processo all'idea, alle intenzioni. Non è sempre e propriamente legata a reati specifici. Mira a colpire una condotta di vita in conflitto con lo Stato e le sue istituzioni, con la finalità di limitare la persona a cui è destinata nella sua libertà di movimento, di espressione e di azione in generale. Questa natura vaga ed elusiva fa sì che possa essere applicata in un'ampia varietà di casi e modalità. Infatti sentiremo che il compagno appunto enfatizza questo discorso, che può essere utile, è uno strumento molto duttile nelle mani dello Stato e della repressione, può essere utilizzato a man bassa. E, nel caso dell'ambito specificamente anarchico, si può affermare che il suo uso recentemente più diffuso si colloca come perfezionamento della strategia repressiva già ampiamente sperimentata dallo Stato ed espressa attraverso l'ormai consueto ricorso alla serie dei reati associativi, 270 codice penale eccetera, e attraverso i reati di istigazione a delinquere o associazione a delinquere. E ecco, inoltre, oltre a questo compagno che ascolteremo tra poco, ci sono altre persone appunto che sono sotto processo o addirittura hanno ricorso in appello contro l'applicazione della sorveglianza speciale. Parliamo sempre a Genova, parliamo di una compagna ad esempio che ha fatto una richiesta, è andata in appello per richiedere la revisione delle misure che le erano state propinate con tutte le restrizioni per 5 anni, e questa richiesta di revisione è stata respinta anche se l'accusa di terrorismo è caduta e anche se la sorveglianza speciale si basava come pilastro, diciamo, su questa accusa di terrorismo. Allora, la sorveglianza speciale in questo caso di questa compagna è stata mantenuta completamente, e leggo dalle motivazioni, per l'adesione all'ideologia anarchica, le aperte manifestazioni di solidarietà nei confronti dei militanti della Federazione Anarchica Informale e per il sostegno agli anarchici detenuti, per l'incitamento all'azione diretta, per la diffusione di materiale controinformativo. Ecco, inoltre a questa compagna, oltre a essere rifiutata la revisione della misura della sorveglianza speciale, le è stata anche sequestrata la patente di guida, con la motivazione che il fatto di possederla potrebbe essere funzionale alla commissione di reati. Quindi vediamo come questo dispositivo appunto si dilata, si allarga, per colpire in maniera sempre più bastarda chi non ci sta al sistema vigente. Ma ascoltiamo adesso appunto l'intervista che è andata in onda qualche giorno fa su Radio Onda Rossa nella trasmissione Silenzio Assordante. Sì, ok, allora niente, la misura della sorveglianza speciale è una misura con delle restrizioni ovviamente, che appunto, come dicevi te, non colpisce soltanto i compagni, anche qua a Genova ha colpito altre varie persone per svariati motivi. E praticamente è una sorveglianza, ti danno delle restrizioni che bisogna rientrare, solitamente fanno che danno delle restrizioni per un rientro notturno, che potrebbero essere le 10 di sera, e l'obbligo di dimora nel proprio comune, e in certi casi il divieto di frequentare dei pregiudicati. E ovviamente comporta tutta una serie di problematiche, perché ogni volta che possono o si beccano trasgredire vieni segnalato, e in qualche caso potresti anche finire poi con delle misure di restrizioni peggiori, come i domiciliari o addirittura andare in carcere. Questo per quanto riguarda, diciamo, la sorveglianza in generale. Dopodiché direi che qua a Genova è stata già applicata a due compagne che appunto sempre lo stesso PM che la sta richiedendo anche per me, appunto ha chiesto per queste due compagne, di cui una compagna magari già con alcuni precedenti, mentre la seconda compagna molto più giovane, con praticamente zero precedenti, quindi è stata molto arbitraria come sia dalla parte della richiesta, quindi da parte del PM, che da parte dei giudici, che poi hanno accettato. In un giro di due settimane hanno dato, sia nel primo che nel secondo caso, hanno dato conferma, esito positivo, quindi sono partite direttamente le restrizioni per tutte e due compagne. Per quanto riguarda me invece, cioè anche io sono un compagno che da parecchi anni sono, diciamo, attivo, perché c'è una certa età, ovviamente il PM fa riferimento a tutta una serie di reati commessi e o non commessi, dove appunto fa riferimento a questa roba, e vengo con curriculum vitae che poi viene presentato al giudice, e il giudice valuta, grazie a tutti questi documenti che presenta il PM, valuterà se darla anche a me. La richiesta per me di 5 anni di sorveglianza, per ora diciamo che più di 2 anni non l'hanno concessa. C'è stato già un ricorso in appello da parte della prima compagna a cui è stata data, che però è stato di esito negativo, e addirittura si è inasprita la situazione ritirandogli pure la patente in un secondo momento. Quindi questa è un po' la situazione, diciamo, che si prospetta a Genova, in quanto la procura sembra che sia ben d'accordo con il PM a concedere queste forme di restrizione. Ascolta, tu facevi riferimento, insomma, a quanto riguarda la tua vita, alle tue scelte di lotta, insomma, dicevi che sei un compagno di lunga data, e parlavi appunto di curriculum. Di fatto è una misura che si basa sul concetto di pericolosità sociale, quindi vorrei un pochino capire che clima c'è in città. Se è stata intesa la pericolosità di questa misura anche da chi partecipa in generale alle lotte, che tipo di discussione si è innescata, perché è un buon ritmo quello che stanno tenendo rispetto a queste richieste di sorveglianza speciale. Sì, certo, infatti quando mi è stata notificata a me a luglio, i primi di luglio, e la prima cosa che abbiamo deciso con i compagni è di allargare il diciamo, la notizia, farla girare il più possibile, in modo che anche le altre situazioni di compagni che non sono magari nostri diretti, persone con cui ci confrontiamo quotidianamente, però che abbiano anche loro, diciamo, la possibilità di capire quello che sta accadendo, perché comunque quello che sembra la cosa la vogliano allargare non solo appunto ai compagni più stretti miei, quindi gli anarchici, il giro degli anarchici, ma anche a situazioni che magari ora come ora sono molto giovani, come gli universitari per esempio, che però già stanno ricevendo una pioggia di denunce per varie occupazioni o manifestazioni non autorizzate, oppure anche per esempio quei portuali, ne abbiamo discusso perché anche i portuali hanno avuto un'indagine che è ancora aperta di 270 associazione a delinquere, dove appunto faceva riferimento al blocco della nave in porto che trasporta armi nello Yemen. Perciò abbiamo deciso di allargare questo discorso a tutti i compagni che sono attivi nell'area genovese, non solo, e abbiamo organizzato degli incontri pubblici dove, diciamo, sono stati abbastanza numerosi le persone che hanno partecipato, perché hanno capito anche loro che questa strategia qua della repressione non si fermerà, non si fermerà con noi, sicuramente andranno avanti, perché appunto, come dicevi te, sono molto incalzanti e perciò il rischio è proprio questo. Quindi infatti poi dopo parleremo del 15, però comunque sarà un presidio dove parteciperà anche proprio la cittadinanza, cioè, non solo compagni, ecco, cioè, abbiamo cercato di allargarlo il più possibile questo discorso. Yeah. Allora, fai bene insomma a raccontarci questo percorso, che poi è fatto di relazioni, di discussioni, di analisi, perché la sorveglianza speciale c'ha questa specificità, a parte in alcuni casi quando è stata chiesta nei confronti proprio di numerosi compagni magari di un collettivo, c'ha questa differenza che, come molto spesso accade tra l'altro con la repressione, è individualizzante. A differenza ad esempio di una pioggia di denunce che può capitare per una giornata di lotte, quella misura là viene richiesta proprio su misura, diciamo, e in momenti specifici magari che riguardano la vita delle persone, e a cui farci fronte a una misura del genere è molto difficile senza una rete di relazioni che discute molto prima come affrontare l'avere un compagno sorvegliato speciale, ecco. In questi tempi un po' si è riaccesa l'attenzione su casi specifici, faccio ad esempio il caso di Eddie, una compagna che è stata in Rojava, un po' c'è stata un'attenzione, diciamo, su questa misura, e non si, diciamo, difficilmente si è andato a generalizzare l'analisi, si è rimasta un po' sul caso specifico che riguardava questa compagna. Ecco, il fatto che in una città si discuta di come si sta muovendo la controparte e di anche come utilizza la propria cassetta degli attrezzi in base ai collettivi, in base ai gruppi, in base alle situazioni di lotta specifiche, questo diciamo è solo un bene. Poco fa ci parlavi dei portuali che hanno toccato un nervo scoperto, questa Italia che sembra che non è mai in guerra ma ci partecipa e come alle guerre, e sicuramente la logistica ne è parte. Ecco, dici un po', appunto, ci hai già annunciato il presidio del 15, dici un po' che argomenti stanno attraversando questa proposta di presidio, se pensi che un po' sta rimbalzando in città, se si sente un po' addosso questa cosa. E allora, diciamo che per il 15 ci dovrebbe essere una buona presenza da parte, dico, da parte della città, perché comunque abbiamo ricevuto parecchi messaggi di persone, gruppi, individui o anche gruppi, appunto, che hanno accettato e vengono volentieri e parteciperanno al presidio, che poi la giornata del 15 si svolgerà in due tappe. Una sarà il 15 mattina dalle 9:30 davanti al tribunale, quando c'è il presidio, appunto, quando io ci avrò l'udienza, e poi proseguirà alle 5 del pomeriggio con un corteo nel centro storico. E devo dire che sì, ho ricevuto parecchi messaggi di solidarietà e parecchie adesioni, e sono anche contento che non solo, diciamo, gruppi magari più o meno, diciamo, antifascisti o che gravitano nel mondo dell'operaiato, devo dire che anche altre persone che magari si conoscono personalmente, che fanno i più svariati lavori, eccetera, sono inorriditi da queste forme di repressione, perché non si immaginavano neanche, perché finché ne parliamo tra di noi sappiamo sempre che bene o male ci aspettiamo di tutto dalla magistratura, sappiamo quanto siamo toccati e vulnerabili, tra virgolette, ma quando ne parliamo con le persone che, diciamo, fanno una vita più o meno normale, che non magari difficile, che arrivano allo scontro con la controparte, eccetera, e gli dici quello che accade in una città come Genova, vengono veramente, si vede che rimangono sorpresi, perché non se le immaginano neanche che una magistratura possa muoversi così, anche se siamo dichiaratamente rivoluzionari, comunisti, anarchici, quello che è, però non si aspettano che possano adottare delle forme di repressioni così come appunto una legge fascista come quella sulla sorveglianza sociale, che tra l'altro è stata modificata, ma direi modificata in meglio per loro, perché comunque riescono ad adottare una restrizione senza troppe regole, diciamo, se le danno da solo, via via modificano il modo di dare le restrizioni in base anche a come l'avvocato cerca di respingere le accuse o quant'altro. E la magistratura qua sta proprio facendo il bello e il cattivo tempo, c'è da dire proprio questo, perché non se l'aspettava praticamente nessuno, ecco, che a Genova potessero adottare queste forme repressive così in un modo molto veloce, ecco. Perciò devo dire sì che c'è abbastanza partecipazione, ci sarà abbastanza partecipazione, e poi probabilmente ci aspettiamo anche un po' di compagni che vengono da fuori e che anche loro porteranno, come sempre è stato in questi casi, la propria solidarietà. Allora, ascolta un attimo, dato che questa, insomma, ci descrivi l'incalzare della magistratura in città, la tendenza, l'abbiamo già detto in apertura, sta avvenendo anche in altre città, e non solo per quanto riguarda la misura della sorveglianza speciale, insomma, sono tante, questa ha un'udienza, sono tante le misure di cui via via lo Stato si sta dotando, che vengono date con una certa facilità e che tra l'altro molto spesso rincorrono anche fatti mediatici eclatanti, ecco. per fare un esempio, che magari è una misura un pochino più blanda, però ecco il Daspo Willy, che purtroppo porta il nome tra l'altro del ragazzo ammazzato, è una misura introdotta recentemente, data anche la mediaticità di un caso di cronaca, un'aggressione che ha riportato poi alla morte di un ragazzo. Ed ecco, c'è una tendenza feroce che poi abbiamo anche assaggiato in questo anno e mezzo, di come quando passano con facilità alcune misure, specialmente su chi lotta e su chi è escluso, poi è facile che queste misure poi riguardino tutta la popolazione. Abbiamo visto come di fatto, per esempio, una misura come quella del coprifuoco sia stata introdotta senza nessuna resistenza di fatto, eppure si trattava proprio della possibilità di muoversi nello spazio all'aperto, nello spazio cosiddetto pubblico. Ecco, io colgo davvero bene il fatto che siete riusciti a parlare con fette di popolazione che non sono quelle strettamente militanti, perché sono discorsi che poi, al di là di quello che purtroppo o nel bene o nel male sta riguardando e riguarderà te nell'udienza del 15, poi sono ragionamenti che vanno tenuti un po' vivi, ecco. Sì, certo. Ma infatti uno dei motivi per cui abbiamo detto di allargare e di non lasciare che siano sempre i soliti compagni ad occuparsi delle varie restrizioni che vengono colpire, appunto, che i compagni devono subire, è stato proprio questo. Il purtroppo il futuro ci dice che non sarà per niente roseo, tra pandemie e quant'altro. E restrizioni che ti possono piovere così addosso in 448, sicuramente quello che abbiamo deciso di fare è proprio che questa udienza qua del 15 deve essere il pretesto per iniziare un nuovo tipo di ragionamento che ovviamente faticosamente, ma ce lo siamo detti anche la volta scorsa all'ultima assemblea pubblica che abbiamo fatto, è faticoso perché ci sono tante individualità o tanti gruppi e di difficile persone con cui non avevano mai parlato assieme, però dobbiamo aver presente che la repressione intanto non colpisce solo in un modo, cioè non è che colpisce solo me con la sorveglianza o un altro con altre forme, ma colpisce tutti indistintamente. E se cominciamo a capire che possiamo, e secondo me uso anche una parola che magari non è tanto non va tanto in voga tra gli anarchici, ma dovremmo, cioè, riuscire a creare una forma di collaborazione anche solo sui momenti repressivi, che poi questo porti a qualcosa di più ampio e ben venga, però siccome che qua a Genova ci sono una pioggia di denunce come in tante altre città, ovviamente qua che detto che appunto vengono colpite tante persone diverse, si è detto il 15 deve essere semplicemente un inizio, dopodiché partiremo con la solidarietà. Per esempio c'è il 18, c'è il processo ad Alessandria dei Cobas, dove saranno tantissime le persone dei Cobas sotto processo per i picchetti, eccetera. Quindi anche lì abbiamo detto, siccome che anche loro fanno parte di questa assemblea, diciamo un po' più allargata, abbiamo detto cerchiamo di collaborare, cioè perlomeno riusciamo a dare una risposta, direi, più significativa, perché a me dispiace, però è ovvio che se rimaniamo tutti a ragionare solamente per il proprio per il proprio cantuccio, è difficile poi riuscire a bloccare anche queste forme repressive, che è il minimo che bisognerebbe fare comunque, essere presenti, dare del filo da torcere anche solamente con delle presenze quando siamo davanti ai tribunali. Lo so che i compagni l'hanno sempre fatto per qualsiasi processo, ma il fatto che ci siano più persone diverse, di categorie diverse, lavoratori e non solo, secondo me questo è un fatto importante che stiamo cercando di fare, e sicuramente con il 15 ci riusciremo, però non dobbiamo fermarci a questo, dobbiamo continuare e cercare che siano anche le altre occasioni per poterci vedere e dimostrare che ci siamo, ecco. Benissimo, benissimo. Allora, non so se vuoi aggiungere altro, se vuoi dare gli appuntamenti, insomma, Genova è anche piuttosto vicina. Allora, scusa che è andata un po' via la voce, l'appuntamento è comunque il 15 alle 9:30 del mattino davanti al tribunale, l'udienza è a porte aperte, ma sappiamo che con la situazione Covid sarà comunque, non so quante persone potranno entrare in aula. Io dovrei, perché lo sto elaborando, leggere un testo in aula e dopodiché c'è questo presidio finito, che probabilmente finirà anche velocemente perché non danno un giudizio subito, ma aspettano almeno un paio di settimane, direi io, se non meno, e dopodiché ci si ritrova in uno spazio che abbiamo cercato, appunto, anche questo grazie alla collaborazione che c'è stata in questo periodo di altri compagni giovani universitari e non solo, che appunto ci danno lo spazio in centro storico per ritrovarci lì, per poterci rifocillare eccetera, per poi alle 5 essere presenti per il corteo che partirà da Piazza Banchi. Benissimo, allora da qui ti mandiamo un abbraccio, ci sentiamo presto. Grazie. E forza. Grazie a voi. Dai, ciao ciao, grazie. Per me, oh. è stato facile. Bene, abbiamo ascoltato adesso questa band che è, sono i Loscos Brigade, è una band di Lecce, e comunque sono quattro le band che abbiamo ascoltato durante gli interventi. Tutte e quattro le band fanno parte di questo 7 pollici uscito 2 anni fa, completamente autoprodotto, che si chiama Quattro Fulmini. E le band che abbiamo ascoltato, anzi a scalare in ordine appunto questi Loscos Brigade di Lecce, abbiamo ascoltato i 5 MDR, che non ho idea che a cosa corrisponda questa sigla, che comunque sono di Savona. Poi precedente a questi 5 MDR abbiamo ascoltato in Zona d'Ombra di Como, e poi quelli che abbiamo anche presentato all'inizio, i Seamless di Cosenza. Ora invece andiamo all'ascolto di un altro split album, un split datato a primissimi anni 90, anche lì le band sono invece due, ovvero gli Inkisi Ciao, che è una band portoghese, e gli Exacto, e noi ci ascoltiamo appunto questi Inkisi Ciao. E siamo sempre su Zardins Magnetics in diretta. E allora ritorniamo appunto agli argomenti così politici, e parlando di 11 settembre e di Cile. E appunto sabato scorso era l'11 settembre, e avvilita io personalmente dalla così propaganda della radio di regime, chiamiamola così, della RAI, appunto, che ha fatto tutta questa così commemorazione dell'11 settembre 2001 relativamente appunto al discorso delle Torri Gemelle, sì, quindi dell'attacco agli Stati Uniti. E avvilita perché la retorica è sempre quella, insomma, di la civiltà colpita dagli incivili e dai disgraziati, e non invece, quindi assolutamente senza nessun così commento critico rispetto a che cosa sono gli Stati Uniti e cosa hanno fatto, la potenza degli Stati Uniti in tutto il mondo. Dicevo appunto, avvilita quindi da queste narrazioni così allucinanti, sono fatto un giro nei blog che frequento di più, e sono andata a vedere il blog della coordinamenta femminista e lesbica di Roma, e ho trovato qui sollievo, nel senso che appunto le compagne hanno pubblicato un post che ricorda l'11 settembre 1973, anniversario del colpo di Stato in Cile. Lo hanno fatto attraverso riproponendo un articolo, una parte di un articolo che risale al 2011, quindi un articolo di 10 anni fa, che quindi parla anche della situazione, insomma, in quel momento, cosa stava succedendo in quel momento in Cile, cioè le rivolte studentesche, insomma, contro appunto la privatizzazione dell'università e della scuola e tutte queste cose qua, e anche la repressione molto forte di piazza dei manifestanti. E poi da cosa nasce cosa, io poi ho pensato, insomma, tutto. Beh, mi sono un po' documentata sul golpe appunto dell'11 settembre 1973, perché magari così i ricordi erano sfumati, nel senso non tanto particolareggiati. E poi da cosa nasce cosa, leggendo le varie cose, insomma, ho trovato un importante documento di Monica Caballero, prigioniera anarchica ora in Cile, appunto in una sezione femminile nel carcere di San Miguel. Ma andiamo per ordine. Allora, vi leggo intanto così l'incipit di questo articolo che è apparso sul blog della Coordinamento Femminista e Lesbica di Roma. Ogni anno l'11 settembre ricorre l'anniversario del colpo di Stato in Cile. Tre riflessioni mi vengono subito in mente. La prima riguarda il silenzio che lo circonda, accompagnato dalla rimozione nell'immaginario collettivo. La seconda fa riferimento al fatto che il colpo di Stato è stato eseguito materialmente dai militari cileni, ma organizzato e su commissione degli Stati Uniti. Tacendo su questo aspetto importante, si accredita la vulgata corrente secondo cui il fascismo è altro rispetto alla società capitalista, mentre il fascismo ne è una variante, scelta quando il sistema ritiene più opportuno utilizzarla e dimenticando che la regia è sempre la stessa. Siamo criticamente disarmate quando colpi di Stato e guerre umanitarie avvengono ai nostri giorni. La terza riflessione, che per certi versi ci interessa più da vicino, riguarda il fatto che si vuole far passare il colpo di Stato in Cile come il frutto di ambienti reazionari oscurantisti, ma non è così. La dittatura militare in Cile è stata il debutto del neoliberismo. Tutte le elaborazioni del neoliberismo, che fino ad allora erano solo teoria, sono state applicate al Cile e in Cile. Fra queste la privatizzazione della scuola e dell'università. E appunto io sono andata un po' a cercare vari documenti sul colpo di Stato cileno e beh, ho trovato insomma delle cose che così vi leggo, che sono interessanti. Il colpo di Stato cominciò all'alba nella città portuale di Valparaiso. Si mosse per prima la marina occupando il porto e la città. Saputo questo, Allende, il presidente, si precipitò alla Moneda, il palazzo presidenziale nel centro di Santiago. Si rivolse attraverso la radio ai cileni e in particolare ai lavoratori per invitarli alla vigilanza e alla fermezza. Eppure mostrava ancora di prestar fede alle rassicurazioni di Pinochet, che negava il coinvolgimento nella sedizione. Pinochet comandava le forze armate. Solo alle 9:15 del mattino, quando la Moneda era circondata dai carri armati dell'esercito e la forza aerea si apprestava a bombardare il palazzo della Moneda, Allende si arrese all'evidenza. Dopo aver rifiutato la proposta dei golpisti di un salvacondotto per lasciare il paese, Allende, armi alla mano, si apprestò a resistere e a morire. Quindi, diciamo, è uscito da questa vicenda con onore. Il governo di Allende non era un governo rivoluzionario, si era insediato con regolari elezioni e collaborava con l'opposizione borghese e con la Democrazia Cristiana. Le principali riforme erano quella agraria, che era stata deliberata dal precedente governo democristiano, e la nazionalizzazione delle miniere di rame, che erano in mano alle multinazionali nordamericane. Allende aveva fatto entrare nel governo i massimi rappresentanti delle forze armate, proprio per cercare di allargare, diciamo, il più possibile il fronte riformista. Quindi si può dire che questa cosa del colpo di Stato in Cile è stata una tragedia proprio del riformismo. E alcuni compagni sostengono anche che questo golpe cileno è stato, diciamo, la testimonianza, la prova che una rivoluzione che si ferma a metà strada si scava la fossa con le proprie mani. Infatti, in Cile c'erano stati, cioè, il movimento operaio e anche i contadini, comunque i lavoratori e i proletari avevano molta forza e avevano fermato anche delle azioni controinsurrezionali, diciamo, manipolate dall'estrema destra. Solo che il governo, appunto, presieduto da Allende, invece di diffidare delle forze borghesi e anche delle vieppiù delle forze armate travestite, diciamo, da Agnelli, hanno sempre cercato invece di allargare il fronte, diciamo, istituzionale e di allearsi, fare queste alleanze, addirittura abbassando il livello del conflitto sociale delle classi proletarie. Una cosa che mi ha colpito, una cosa interessante, che proprio nel 73 il governo Allende aveva emanato la Ley de Control de Armas. In base a questa legge, appunto una legge sul controllo delle armi private, il domicilio diventa non più inviolabile. E che cosa succede? Questa legge apre a perquisizioni senza mandato alla ricerca di armi. Quindi aprirà questa cosa poi a tutto quello che è successo, poi, insomma, i desaparecidos, i dissidenti politici messi nei campi di concentramento, negli stadi, eccetera. Allora, le compagne della coordinamento, appunto, hanno detto il golpe ha sancito praticamente il consolidamento del neoliberismo in Cile. E parliamo di neoliberismo militare. L'esempio cileno: il liberismo economico, per potersi imporre in un paese con un forte movimento operaio, cosa deve fare? Deve annichilire le organizzazioni sindacali e deve rendere sindacali e comunque, diciamo, di lotta, e deve rendere ultra flessibile il mercato del lavoro. E questo è iniziato, diciamo, era già iniziato prima del colpo di Stato, si è consolidato col colpo di Stato e poi è andato avanti. Boh, ci sarebbero tante cose da dire anche su quello che sta succedendo. Beh, parliamo dei Mapuche, ad esempio, la repressione, che anche questa ha uno stampo, oltre ad avere il carattere di genocidio, anche uno stampo neoliberista, in quanto vengono distrutte completamente i territori e le risorse di queste popolazioni per a scopo, appunto, di lucro e per mandare avanti, insomma, il capitalismo imperante. E ci fermiamo però qui un attimo, mettiamo ancora un po' di musica e poi ricominciamo. Ecco, ritorniamo ai nostri discorsi sul Cile e arriviamo al giorno d'oggi. Dicevo di questa lettera di Monica Caballero, una lettera di luglio 2021, che si intitola "Il vento porta buoni segnali". Allora, intanto diciamo Monica Caballero Sepulveda, insieme ad altri compagni e compagne, è detenuta, appunto, anarchici, e sono tutti detenuti nei carceri di massima sicurezza. In aprile-maggio c'è stato un momento di lotta molto forte con scioperi della fame, e tra l'altro scioperi della fame che poi sono stati intrapresi all'interno delle carceri anche in Italia, ad esempio a Terni da Juan. E vi leggo, perché insomma è importante, quando appunto i compagni facevano lo sciopero della fame hanno fatto un lungo documento che spiegavano i motivi di questa forma di protesta che utilizza il proprio corpo come arma di lotta. Ci dicono i compagni: Monica, Marcello, Joaquín, Juan, Francisco, Solar, Pablo, Juan. Dal 1990 fino ad oggi la prigione politica continua a rinchiudere coloro che si ribellano contro l'ordine attuale e passano dalla parola all'azione attraverso le multiformi pratiche illegali. Prima sono stati gruppi armati di sinistra, poi nuclei autonomi e informali di azione e individualità anarchiche, così come la dignitosa resistenza mapuche, per arrivare fino ai cosiddetti prigionieri della rivolta. Per tutti ci sono sempre state leggi speciali, giudizi falsati, trattamenti giuridici, penitenziari e polizieschi, giornalistici differenziati. Tutta una trama preparata per la punizione di coloro che passano all'offensiva e per mantenerli sequestrati per ragioni di Stato. E poi ci dicono i compagni: la libertà fiorirà sulle macerie delle prigioni. Il nostro grido di oggi è forte e chiaro: abrogazione dell'articolo 9 e ripristino dell'articolo 1 del decreto legge 321, semplicemente che non ci sia retroattività nella modifica alla legge che regola la libertà condizionale e che questa torni ad essere un diritto acquisito della persona reclusa e non un beneficio. Marcello Villarroel, libero. La sua situazione giuridica non regge all'analisi. Condanne elevate che oggi ammontano a 46 anni, emanate da procuratori militari per fatti accaduti 29 anni fa. Alterazione dei tempi di liberazione condizionale con la modifica del DL 321, prolungandoli per più di 16 anni. Marcello Villarroel ha vissuto più di 25 anni di reclusione in tre periodi. La sua situazione giuridica e politica cristallizza gli elementi di un sequestro di Stato per chi è considerato un nemico a causa della sua chiara e radicale posizione antiautoritaria e antistatale. Per l'estensione della solidarietà attiva con i prigionieri sovversivi anarchici della rivolta e della liberazione mapuche. Per la fine del carcere preventivo come strumento di punizione. Ci uniamo alla richiesta mapuche di applicare la Convenzione 169 della OIT, Organizzazione Internazionale del Lavoro, per la situazione dei Peñi e Lamgen, fratelli e sorelle, prigionieri della lotta. Per la fine delle condanne della giustizia militare contro Juan e Marcelo. E questi erano i punti fondamentali delle rivendicazioni dei compagni cileni in lotta. E ora vi leggo la lettera di Monica Caballero, è breve. Il vento porta buoni segnali, perché è una lettera che dà un po' di speranza anche a noi. Mentre scrivo questa riflessione, nel giorno che segna un anno da quando lo Stato cileno ha sequestrato Francisco e me, sento le voci dei compagni e delle compagne che manifestano fuori dal carcere. Dall'altra parte delle sbarre, delle recinzioni e dei muri, ci sono mani e cuori inquieti che agiscono per quanti tra noi sono dentro le gabbie del capitale. In questa occasione non solo le loro grida mi hanno raggiunta, ma ho anche ricevuto un volantino. Il vento ha portato un regalo bello e inaspettato, bella propaganda anarchica. Spesso, fra quelli di noi che compiono o hanno fatto azioni di propaganda antiautoritaria, non cogliamo le dimensioni delle conseguenze che queste possono avere su altre persone. In linea di principio, l'obiettivo di qualunque propaganda è quello di consegnare un messaggio che idealmente incita o ispira altri ad agire contro l'attuale sistema di terrore. Però forse chi riceve questo messaggio non agisce, ciò non fa effetto e rimane uno spettatore passivo. In questo caso vale la pena chiedersi: Forse la propaganda non era abbastanza efficace? Cosa spinge un individuo ad affrontare ciò che lo domina? Allo stesso modo, cosa spinge qualcuno a vivere passivamente in un mondo di miseria e di oppressione? Questo tipo di domande me le sono poste in molte occasioni, a volte ho pensato di aver trovato delle risposte, ma con il tempo ho realizzato che la libertà individuale, vale a dire le decisioni e le azioni degli altri, non può né dovrebbe essere misurata o prevista. Anzitutto, per parlare di libertà individuale, deve sussistere una conoscenza della realtà e dei fattori che la creano o la limitano. Per decidere è necessario conoscere, e in quest'ultimo caso la propaganda è fondamentale. Nel mio caso, ciò che mi ha spinta a prendere la strada del conflitto permanente è stata indubbiamente la propaganda di altri. Tra i vari fattori, la mia conoscenza politica sarebbe stata molto diversa se non fossi stata destinataria di una propaganda senza fine. Non so se è stato un volantino, un graffito per la strada, un comunicato rivendicativo, o forse è stato l'insieme dei messaggi, degli slogan che mi hanno portata a mettere in discussione, a confrontarmi con l'egemonia del potere e la società che lo sostiene e di cui necessita. Oggi un semplice foglio ha rotto tutte le impressionanti misure di questo carcere ed è volato da me. Questa propaganda in questo luogo acquista un ulteriore aspetto. Mi ha mostrato che, per quanto imprigionati, il potere ci tenga o pretenda tenere noi che ci battiamo per un mondo dove governino solo il mutuo appoggio e la solidarietà, non saremo mai soli. Abbiamo bisogno di molta propaganda, abbiamo bisogno di molte azioni dirette se vogliamo colpire il capitalismo e le relazioni che genera, così come l'egemonia imposta del potere. Approfitto dell'occasione per inviare un forte abbraccio fraterno alla famiglia Vergara Toledo. Luisa Toledo è stata una propagandista che ha contribuito enormemente alla proliferazione di molte generazioni di giovani combattenti. Morte allo Stato e viva l'anarchia. Monica Caballero, anarchica e prigioniera, carcere di San Miguel, luglio 2021. Questi che abbiamo ascoltato erano gli Inkisisao, band portoghese che abbiamo ascoltato appunto tra i vari interventi, e comunque tutti i brani presi da questo album Split assieme ad un'altra band sempre portoghese, ovvero gli Exacto, ed è comunque un album che risale ai primi anni 90, se non erro nel 93. Comunque ora invece andiamo all'ascolto di questa band londinese, loro sono gli Agnosi o Agnosai, presumo, comunque da questo loro album d'esordio datato 2011, anche se successivamente ne hanno fatti altri due, tra cui l'ultimo 2 anni fa, e comunque questo, come ho detto, è il primo album, che si chiama Past the Point of No Return. Agnosi. We'll be right back. Bene, mentre stiamo sempre ascoltando in sottofondo questa band Agnosy, da questo loro album Past the Point of No Return, datato questo album 2011, che è stato il loro primo album, ne sono successivamente avvenuti altri due, e comunque band questa che si era formata sulle ceneri di sempre una band londinese che erano i Beginning of the End. Comunque rimaniamo ancora all'ascolto di questi Agnosy. Bene, allora abbiamo ascoltato direi abbondantemente questa band londinese, loro sono gli Agnosy, band tuttora esistente, anzi l'ultimo album risale ben a 2 anni fa, e noi ci siamo ascoltati questi brani estrapolati dal loro primo album che si intitola Past the Point of No Return. Bene. Ora invece siamo quasi al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì qui dai studi di Radio Onde Furlane, e in diretta radiofonica dalle ore 20 alle 21:30 qui dai studi di Radio, come già detto, la Radio Onde Furlane da Udine. Bene, prima ancora ci ascoltiamo, e scusate, prima ancora di concludere la serata, la trasmissione, vi leggo i soliti contatti nostri per scriverci. Chi volesse farlo alla vecchia maniera, ovvero scrivendo lettere e quant'altro, lo può fare alla casella postale 129 Trieste Centro 34121 Trieste, intestando ad Associazione Senza Sbarre. Ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121 Trieste, oppure può anche scriverlo via mail, cioè può scriverci via mail, libere tutti @autistiche.org. ripeto, libere tutti @autistiche.org. Oppure chi volesse riascoltare questa trasmissione o anche quelle delle scorse, dei scorsi giovedì, può farlo nel blog che si chiama zardinsmagnetics.radio.noblogs.org. Ripeto, zardinsmagnetics.radio.noblogs.org. Bene, siamo, come già detto, appunto al termine. Ci salutiamo quindi per il prossimo giovedì, sempre in diretta radiofonica, qui dagli studi di Radio Onde Furlane a Udine, dalle ore 20 alle 21:30. E vi lascio con questa band dell'Uruguay. Loro sono i Pirexia, da questo loro album datato 2004. E quindi ciao a tutti e al prossimo giovedì.